insieme due ore. Però ci sto. Stai serio? Ok. Capito? Sì. Ascolta ciò che vuoi, dal tuo salotto alle 18, fammi il botto. Il titolo è Gigi Slop. M2O, musica allo stato puro. Ti ripeti di sicuro. Di sicuro. Spettacolo, Bradia. Questa non è teoria. Non è teoria. È un sogno che porta via. Ti accende quel fuoco che ti spinge a creare. Voglio creare. E ti dà la speranza di poterlo fare. Si concretizza in un volo mentale. Da gioia al tuo giorno. E non fa male. We'll be right back.

Aiuto. Ma che è? Tranquillo. Mai, ma è bello ripeterlo. Sempre lui. Se schiada mai. Happiness, happiness. Gigi D'Agostino. Io non predico una strada, ma un mondo pieno di strade. Una maggiore conoscenza, una maggiore scienza. Celestino Discobar. Il momento creativo. È il momento creativo. Passaggio all'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... La condizione in cui mi trovo è proprio fuori da... signori, ecco a voi Gigi D'Agostino. Falling in like a soul, don't need a love. Be my baby soul. Dreaming in like a soul, don't know what is love. Teach my baby soul. And I cry. Spettacolo questo. Ciao, questa è forte questa. Canzone senza lo sbaglio.